Piuttosto cerchiamo, e l'ho già detto, il sostegno dei sindacati per farcela, per portare al successo un'operazione che è evidentemente molto difficile, abbastanza difficile, diciamo. J'en viens maintenant à ce qui était le dernier point. Vorrei passare all'ultimo punto dello scambio che ho avuto con i sindacati. Celui du plan social. E si tratta del piano sociale. Et là encore, je voudrais rétablir quelques ancora chiffres. Una volta vorrei chiarire alcune cifre. Et rappeler quelques évidences juridiques. Vorrei ricordare alcune evidenze giuridiche. Vous le savez, Alitalia aujourd'hui est constituée de deux entités. Oggi l'Alitalia è formata da due entità. Alitalia Fly. Alitalia Fly. Et Alitalia Servizi. Alitalia Servizi. Alitalia Fly c'est aujourd'hui Alitalia Fly 9000 rappresenta oggi 9000 900 personnes. 9900 persone. Les conséquences du plan industriel. Le conseguenze del piano industriale ont été estimées par nous. Sono state da noi valutate. Un sureffectif de 1600 personnes. In un esubero di 1600 persone. Ce chiffre de 1600 personnes. Queste 1600 unità. Ne peut en rien constituer une surprise. Non credo che possano rappresentare una sorpresa, dal momento che au mois de décembre dernier, nel dicembre scorso, lorsque nous avions fait quando avevamo fatto premières estimations le nostre prime stime nel quadro dell'offerta non vincolante, nous avions parlé de 1700 avevamo parlato di 1700 unità. Et je me rappelle encore avoir reçu à Paris. Ricordo ancora di aver ricevuto a Parigi durante il mese di dicembre des journalistes alcuni de giornalisti dei delle più grandi testate italiane qui, lorsque je leur avais dit ce chiffre che 1700 quando avevo parlato di 1700 unità m'avaient dit, mais pourquoi êtes-vous, mi avevano detto plus bas que ma perché lei propositions? Si colloca al di sotto delle altre proposte et je leur avais dit que c'est parce que ça me semblait des estimations raisonnables. Ho detto loro che quelle stime erano delle stime ragionevoli. Donc après deux mois de travail, quindi dopo due mesi di lavoro nous avons confirmer ces estimations. Abbiamo potuto confermare dessous, queste stime al ribasso, direi, andando scendendo un po' al di sotto. 1600 au lieu de 1600 invece di 1700. Nous avons estimé abbiamo les choses de valutato, manière, valutato le cose in modo beaucoup plus faible qu'auparavant. Più basso di prima per quanto riguarda il personale di terra, pour les hôtesses et les stewards, per gli assistenti di volo, hostess e stewards, mais il est vrai, un però peu supérieur pour les è pilotes. Vero, effettivamente la stima è un po' superiore per quanto attiene ai piloti, tenuto conto delle conclusioni sur le cargo, delle conclusioni alle quali siamo giunti sul cargo. Après Alitalia Fly, dopo Alitalia Fly abbiamo il problema di AZ Servizi. AZ Servizi, vous le savez aujourd'hui, c'est peut-être, come voi c'est 7400 sapete, per AZ Servizi si parla di 7400 unità. Et je souhaite rappeler ici que si AZ Servizi esiste, desidero ricordare che se AZ Servizi esiste, ça n'est pas parce que Air France KLM l'a demandé. Non è certo per richiesta di Air France KLM. AZ Servizi a été créé. AZ Servizi è stata creata. Il y a quelques années. Qualche anno fa. Et ça a été une des conditions. Ed è stata una delle condizioni mise par Bruxelles. Fissate, stabilite da Bruxelles. Pour que l'augmentation de capital affinché d'Alitalia, l'aumento di capitale dell'Alitalia de 1 miliardo di un miliardo di euro soit autorisé. Potesse essere autorizzato. Et il était clair, ed il era, clair dans era evidente ed è tuttora evidente nell'ottica di Bruxelles l'entité publique, che Fintecna, l'ente pubblico Fintecna devait avoir la majorité doveva avere la maggioranza del capitale d'AZ Servizi. Di AZ Servizi. C'est donc une situation dont quindi nous héritons. È una situazione che noi abbiamo semplicemente ereditato. Et pas du tout une situation che nous avons non créée. È certo una situazione che abbiamo creato noi. En raison du travail que nous avons fait pendant les deux mois de négociation exclusive. Luce del lavoro che abbiamo portato avanti durante i mesi di esclusiva. Nous sommes arrivés à la conclusion. Siamo giunti alla conclusione. Qu'il était possible de réinternaliser. Che era possibile reinternalizzare. À l'Italia. In Alitalia. 3300 persone. 3300 persone. Sur les 7400 sulle 7400 persone qui ont été placées sous l'autorité che juridique adesso fanno giuridicamente capo ad AZ Servizi. Ces 3300 persone queste 3300 persone corrispondono ad una serie di mestieri, di funzioni che indispensabili a nostro parere sono indispensabili nelle relazioni con i clienti della compagnia aerea oppure per motivi di efficienza operativa. Perché le cose siano chiare su questo punto, nella misura in cui proponiamo di ridurre in qualche modo la rete dell'Alitalia, nous avons également indiqué aux syndicats abbiamo anche comunicato ai sindacati che su queste 3.300 persone correspondant aux gens que nous réintégrions, equivalgono poi alle persone che noi dovremmo reinternalizzare, environ 500, reintegrare, circa 500 pouvaient être estimés comme étant en sureffectif, potevano essere considerati come dei reali esuberi e giustifiabili da questo punto di vista. Du plan social qui serait élaboré. Persone che potevano beneficiare del piano sociale da donc, elaborare. Les sureffectifs que nous avons indiqués quindi hier aux syndicats. Esuberi che abbiamo comunicato ieri ai sindacati. Pour faire la synthèse de l'ensemble. Questo per fare una sintesi. Sono de 1600 persone sono per AZ Fly. 1600 persone per AZ Fly. E 500 persone e environ. 500 persone circa. Sur AZ Servizi. Per AZ Servizi. Si vous faites l'addition, se fate la somma, 2100 arrivate a 2100 unità. Chiffre très éloigné cifra des 4000, che è molto 7000, lontana 4, dai 4000, 7000, 8000 che ho letto a volte stamattina o di cui ho sentito parlare e che forse queste cifre così derivano dalla complessità del dossier all'Italia.